Buonasera e bentornati sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 nell'etere cosentino. Noi siamo i Mozilla Bros, come sempre alle 7 il mercoledì. Siamo in missione per conto di Dio e per questa puntata avremo un sacco di notizie da darvi. Tante notizie, soprattutto questa è la puntata di vigilia, perché domani arriva il Natale, quindi esatto, stasera è la vigilia di Natale, la vigilia, quindi è la nostra puntata di vigilia del Natale. Siamo tutti contenti perché lo spirito del Natale sta per tornare. Come dicevi? Niente. E siamo di nuovo noi, siamo tornati con un ospite eccezionale, cioè Valentino Obi-Wan. Buonasera, salve a tutti. La formazione è quella di sempre, tranne mancano i 4000 metri d'altezza di Angle di Andrea Blues. Ha fatto un bel PDG. PDG l'ha detto lui stesso, ma presentiamo i nostri presentatori. Ci abbiamo Marco Nosendai, Marco Garolf, che non saluta, va bene. Sta masticando patatine. Sì, e c'è Cicillo che ha appena parlato. Sta parlando adesso. E c'è Lorenzo che non presenta mai nessuno, grazie. Ma se non dai mai il tempo, sì, però. Sì, autocommenti. Sì, c'è Lorenzo. C'è pure Lorenzo. Oh, Garolf, sai chi c'è pure in trasmissione oggi? Chi c'è in trasmissione oggi? C'è Lorenzo. Lorenzo, l'unico. Ok, quindi spiegaci cosa parliamo di questa super mega galattica puntata dei Mozilla Bros. E che ve lo dico a fare, abbiamo preparato per tutto il pomeriggio la puntata, abbiamo una scaletta ferrea che manterremo, un sacco di news, una collegata all'altra, abbiamo un argomento della puntata addirittura che non staremo a svelarvi ora. E un misterioso cavaliere Jedi ci insegnerà i segreti dell'utilizzo della forza in diretta. Jedi. Aspetta che trovo meter. Cos'era? Queste perle di saggezza regalateci da Garul. Compariranno. Aspetta che attivo meterpreter. Aspetta che attivo meterpreter. Loop. Aspetta che attivo meterpreter. 10 minuti di aspetta che attivo meterpreter. Questo non sveliamo chi è, ma lo sappiamo tutti. Bene, adesso partiamo subito con il nostro primo pezzo e se nessun altro ha da dire qualcos'altro. No, sempre. Certo, possiamo partire con il primo pezzo. Perché anticipare? Il nostro pezzaccio blues e poi cominciamo a parlare delle nostre news, dei nostri pezzacci. Questi sono i Led Zeppelin. For me. Questa era Nobody's Fault But Mine dei Led Zeppelin. In realtà questa canzone è stata si ritrova nei libri di storia del 1924 in una raccolta che si chiama Index to Negro Spirituals, esattamente negro. Il titolo originale della canzone era It's Nobody's Fault But Mine, però i Led Zeppelin l'hanno riproposta. È stata riproposta da un sacco di gruppi, è un classico blues gospel riproposto da un sacco di gruppi negli anni 60, fin quando nel 76, precisamente il 31 marzo, i Led Zeppelin l'hanno riproposto, e da lì poi tutti quanti hanno preso come punto di riferimento la versione delle Zeppelin. Insomma, per la serie che fa bene copiare le canzoni altrue, modificarle e farle evolvere. Eh sì, proprio i Led Zeppelin sono maestri in questo. Ricordiamo anche Wall of Love, che abbiamo passato l'altra volta, di Willie Dixon, e anche a malincuore Stairway to Heaven, che ha qualcosa, ricorda qualcosa una canzone dei Taurus, se non sbaglio, di nome Spirit. Ritorniamo con questo sottofondo pauroso, ci ricorda un po' i tempi di Emiliano, quando portava quei sottofondi da Matango il mostro. Grandi i tempi di Emiliano. Ci manca. Non riuscivano mai ad eguagliare i suoi livelli, sono sicuro. Si è fatto vivo nella trasmissione. Ma è un baffetto bellissimo, non l'avevo notato finora. Fantastico. È il nostro Freddie Mercury dei poveri. Dei poveri. Che bello. Sì, però Emiliano si è fatto vivo nella trasmissione, portandoci pezzi di sottofondo porno anni 70-80. Bene, bene, ma con questo sottofondo inquietante potremmo anche iniziare con una news abbastanza inquietante. Ovvero, ai noi, è stato arrestato un certo Gilberto Sanchez, un 49enne, negli Stati Uniti. Con i baffi o senza? Dal nome presumo con baffi. Falso in bilancio? Sì. No. Corruzione? No. Pedofilia? Peggio. Puttane in Parlamento? E il Papa? Peggio. Il 49enne praticamente è stato accusato e condannato a scontare un anno di prigione perché, pensate un po', aveva addirittura caricato su Mega Upload una copia in anteprima dello spin-off sulle origini degli X-Men. Lo spin-off? Origini degli X-Men. Capi? Sì. Cioè, è chiaro, doveva essere subito intrappolato. Cioè, come fa una persona del genere a stare a piede libero? Infatti, praticamente, la casa di produzione, la 20th Century Fox, aveva trascinato Sanchez in aula dopo che quest'uomo, povero uomo, aveva caricato questo file sull'hosting di Megaupload. Lui praticamente come lavoro fa l'installatore di vetri e ha detto di aver trovato il film su una bancarella coreana a New York. Plausibilissimo. Chissà che giri hanno fatto, perché ricordiamo che la versione di questo film non era completa. Infatti vedendo questa cosa si vedevano le schermate verdi, i cavi. C'era una versione in fase di pre-montaggio, pre-beta insomma. Proprio una super pre-beta. Insomma, secondo la 20th Century Fox si è macchiato di un crimine abnorme e quindi dovrebbe a quanto pare passare un anno della sua vita in galera per questa cosa. Tra l'altro il Dipartimento di Giustizia dice che è una pena esemplare per scoraggiare tutti gli altri pirati, che molto probabilmente se ne strafotteranno di questa cosa, ma magari useranno qualche precauzione in più. È una piccola curiosità: il redattore di Fox News, Roger Friedman, aveva anche perso il lavoro dopo aver pubblicato una recensione che era appunto del film, che era appunto basata sulla copia illecita del film. Quindi anche il direttore di Fox News, Roger, aveva scaricato una copia pirata, l'aveva vista e addirittura ci aveva fatto la recensione. Secondo me si è incazzato perché era la versione quella là non definitiva, credo. Cioè si vedevano tutte le imperfezioni, ancora era in fase di montaggio. Io pure mi sono incazzato, devo dire la verità, quando l'ho visto, ho detto: ma che cazzo succede? Cioè ormai nemmeno un film in santa pace si può vedere. Scusa, perché non vai a fare compagnia a Gilberto Sanchez? Scusami? Perché non vai a fare compagnia a Gilberto Sanchez? No, sicuramente posso portare la mia solidarietà. La compagnia probabilmente se continua c'è così tempo, arriverà, c'è tempo. Arriverà presto. O magari qualche arancia del gas. Comunque non aspettiamo, No. Però dopo una notizia brutta e triste, passiamo a una notizia un po' più allegra. Infatti l'Irlanda dice addio ai tre colpi. Praticamente il garante della privacy, il irlandese, ha bastonato pesantemente le misure antipirateria adottate dal provider Aircom, che su pressione dell'industria musicale aveva adottato praticamente la pratica della disconnessione a tre colpi, ovvero se ti beccano a scambiare materiale coperto da copyright, dopo tre volte ti staccano la connessione a internet. Per sempre? Non lo so questo. Cartellino giallo, cartellino blu e cartellino nero. Insomma. Nero, sì. Praticamente dopo che nel 2009, quando era entrata in atto questa misura, diciamo, dopo che tra l'altro decine e decine di abbonati innocenti, che quindi non avevano nemmeno scaricato nulla, si erano ritrovati sconnessi alla rete, il Garante Nazionale della Privacy ha avviato un'inchiesta su sta cosa e sono emersi, oltre a una valanga di errori fatti da questo provider, sono anche resi conto che era, come in linguaggio tecnico-giuridico si dice spesso, un'enorme straminchiata. Infatti, perché non solo le varie aziende avevano, al di là di questa misura totalmente non democratica, dei mezzi giuridici per poter fare causa a chi scambiava materiale protetto da copyright, ma tra l'altro, oltre a una violazione enorme della privacy, perché bisognava monitorare gli indirizzi IP per capire chi faceva cosa, andava anche contro le direttive, per esempio, europee, che vanno ad annoverare il diritto a connettersi come uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Però, come si sa, le major discografiche muovono un sacco di soldi e quindi riescono a piegare ogni logica sensata ai loro bisogni. E anche ogni lobby poco sensata ai loro scopi. C'è da ricordare che l'Italia comunque è arretratissima a livello di diffusione della banda larga rispetto alla media europea, c'è un digital divide rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Sì, c'era proprio la notizia su Punto Informatico, che ringraziamo come sempre, che appunto riassumeva i dati di questo studio che evinceva proprio come l'Italia si trovasse ancora mille anni addietro, diciamo. Bene. Load. Ti carico il payload. Inquietante. Ti carico il payload. Mandiamo un pezzo. Bene, io direi di mandare un altro pezzo. Questo qua è per perché noi siamo molto natalizi, quindi questo qua è per il Natale. Junior Wells, Prison Bars All Around Me. Ah! O Troia Norse, in italiano cavallo di Troia, è un tipo di malware. Deve il suo nome al fatto che le sue funzionalità sono nascoste all'interno di un programma. Un Trojan o Troia Norse, in italiano cavallo di Troia, è un tipo di malware. Deve il suo nome al fatto che le sue funzionalità sono nascoste all'interno di un programma. Bene, abbiamo un altro ospite di cui non sono stato informato, non si vede molto bene. Eh sì, e noi abbiamo un Mozilla Bros che è rimasto in silenzio fino a questo momento, ma adesso ha preso parola il nostro mitico Base 9000. La nostra piccola intelligenza artificiale glossario che in modo randomico, una tantum, vi spiegherà qualche termine strano. Il suo primo è stato Trojan. Bene. Trojan. Ma dobbiamo parlare pure del fatto. E lui parla e lancia degli input. E senza masticare patatine parla pure lui. Sta ai nostri radioascoltatori assimilare, pensare e produrre da questi input piccolini. Mentre noi diamo un'altra notizia che riguarda il nostro caro bellissimo social network blu di faccia libro. Infatti ho visto su Slashdot che un poverino stava cercando di mettere su un'azienda che era anche, si chiamava Like Store, e non faceva altro che vendere dei like alle compagnie. Cosa significa dei vendere mi piace? Sì, dei mi piace. In pratica lui offriva del contenuto in forma gratuita agli utenti solo se loro premevano ai like su qualcosa, così aumentava la popolarità. È già carino comunque vedere come ci sono questi meccanismi di boicottaggio dei social network. Traffici illeciti di mi piace. Traffici illeciti di opinioni, che poi potrebbe essere quello che fa autonomamente un proprietario di un albergo. Magari si crea 10.000 account che dicono che il suo albergo è super. Eppure quello che fanno i governi quando vogliono affossare o non affossare una notizia. Tipo in Cina ci stanno un sacco di piccoli cinesi pagati apposta per fare commenti e cliccare sulle notizie del regime. Esatto, quindi si potrebbe aprire anche proprio un mondo a parte. Fatto sta che a Facebook non gli piaceva, in effetti violava i suoi diritti, i diritti delle sue cose. Non gli poteva vendere un mi piace. E ha scommetto che ha cliccato su non mi piace più. Non mi piace più. No, no, però l'ha bandato, ha bandato tutti i suoi account e l'ha anche anche citato. Addirittura. Come si dice su? Come si traduce su? Citato in citato in giudizio, l'assuato. Sì, l'assuato. Diciamo citato in giudizio, penso sia. È come dire succato senza la C. Fatto sta che questo israeliano ha deciso di cambiare il suo nome in Mark Zuckerberg. In modo tale che così Facebook dovrà avere una causa legale proprio con Mark Zuckerberg. È un genio, cioè massimo rispetto per questo. Della serie uomo. Spy vs Spy, Mark Zuckerberg contro Mark Zuckerberg. Nuove forme di ricorsione. ricorsione. E poi è successa anche un'altra cosa abbastanza importante per quanto riguarda il SOPA, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, vero? Sì, diciamo che in realtà è davvero successo qualcosa. In pratica vediamo se siamo in grado di dirlo. No, la scorsa volta avevamo parlato di cos'era il SOPA, questa misura che gli Stati Uniti stanno portando avanti all'interno del loro congresso, e quindi presto diventerà, speriamo di no, legge, attraverso la quale è possibile effettuare, come viene definito, un gigantesco firewall, praticamente come quello che c'è in Cina, solo che questa volta, diciamo, solo che siccome lo fa l'America è più bello. No, è più democratico, diciamo, ed è permesso farlo perché non proviene dalla Cina. E in pratica sarebbe, questo gigantesco firewall consiste nel bloccare le richieste DNS. Ora, cosa sono le richieste DNS? Avete presente quando voi scrivete www.youporn.com? Dietro questa richiesta il browser invia questo nome, youporn.com, a un computer che trasforma youporn.com in una serie di numeri 1, 7, poi non lo so, insomma, forse Marco forse tu ci potresti. Guarda cosa li hai azzeccati, 1, 7 ho azzeccato in ma non è la tua homepage, youporn? Sì, però avevamo promesso di non dirla al pubblico. Ok. C'è chi ha risolto per me. In pratica 173192241116. Ecco, questi numeri corrispondono a YouPorn. E questi IP, praticamente questo nome con il corrispondente numero che viene detto IP, è contenuto all'interno di una blacklist che gli Stati Uniti probabilmente creeranno. Sarà possibile visitare forse www.casabianca.org e basta, non lo so. White House, giustamente. .gov sarà. Questo plugin di Firefox in sostanza cosa fa? Intercetta questa richiesta. Aspetta, abbiamo saltato un passaggio. Plugin di Firefox? Firefox sappiamo tutti cos'è. No, stai parlando del SOPA. Sì. Quindi sto plugin aggira il SOPA. Stavo per arrivarci. Firefox, insomma, che è arrivato dalla versione 9 e hanno detto che sprida in una maniera allucinante. Sì, però voi non sapete che domani, oggi è uscita la versione 9, domani c'è già la versione 10, perché quelli di Firefox ormai stanno decisamente folleggiando. Perché comunque, è Natale. Comunque, tornando domani al argomento principale, visto che il passaggio è tra il browser e il server DNS, cosa si sono inventati questi signori, questi benefattori, potremmo chiamarli a questo punto? Un plugin che non altro non è che un piccolo programmino che si va ad aggiungere alle funzionalità del nostro browser, che va a intercettare questa richiesta che c'è tra il browser e il server DNS, inviando la richiesta non più a questo DNS reale, ma a dei DNS che loro definiscono offshore, quindi probabilmente alle Cayman anche loro verranno messe. Ma magari sono solo gli Open DNS. Questo non viene scritto, ma non si sa ancora, perché è una notizia abbastanza fresca. E in sostanza sarà questo nuovo DNS che risolverà il vero IP, mettendolo ovviamente in una lista sua, una whitelist questa volta, e ci darà la possibilità da quel momento in poi, poi a seconda di come è settato, vabbè, lasciamo perdere le cose tecniche, da quel momento in poi di visitare il sito che altrimenti il mondo non potrebbe vedere. Quindi comunque già si cominciano, nonostante il SOPA ancora non sia stato promulgato come legge, già si cominciano a vedere le prime contromisure che giustamente, insomma, non tardano ad arrivare. Per la serie, aro culo, bloccami ma. Sì, infatti comunque gli sviluppatori appunto volevano far vedere come dal punto di vista tecnico queste misure del SOPA sono comunque inutili, e quindi volevano appunto spiegare a quelli della Camera dei Deputati. Si chiama Camera dei Deputati, no? Boh, ma non ci interessa. Non interessa. E d'altronde non è la prima volta che si fanno delle leggi tecnicamente impossibili da realizzare o tecnicamente inutili. Ricordiamo, diciamo, come... che quasi tutte quelle fatte su internet fino ad ora lo sono, sì, state. Infatti già solo la pretesa di dover sniffare tutti i pacchetti per esaminarne il contenuto al fine di selezionare solo i pacchetti che infrangono il copyright è una regola folle, perché si parla di analizzare quanto traffico. Una camionata al secondo più o meno. Mille fantastilioni. Sarebbe un carico di lavoro insostenibile per gli ISP e soprattutto aggirabile con neanche con la crittografia, ma semplicemente utilizzando una codifica leggermente diversa che ti permette di saltare questi sniffer e questi parser. Comunque, ovviamente, dietro queste leggi geniali ci stanno sempre le major della musica, che ormai, come spiegava prima il Base 9000, sono dei veri e propri cavalli di Troia. Cioè loro dicono non ci potete rubare la proprietà intellettuale, ma con questa scusa iniziano a creare blacklist. E poi chi mi assicura che il mio sito di controinformazione non finisca in questa blacklist? Sì, esattamente, perché qui c'è proprio il concetto forte, è quello che ha fatto muovere, come dicevamo la scorsa volta, anche Wikipedia. È la discrezionalità che, cioè, il governo deciderà quali nomi e quali IP dovranno finire in questa blacklist senza dover fornire chiaramente nessuna spiegazione, nessun perché. Quindi se oggi tu probabilmente pubblicherai qualcosa che mi è sgradito, qualcosa che io ritengo possa essere pericoloso, ciao ciao, puoi andare a scrivere con le lettere come si faceva una volta e te lo scordi internet, insomma. Eh? Comunque grazie per il sottofondo di Led Zeppelin, bellissima communication breakdown. Ovviamente, ovviamente, ma ritorniamo su Lupin III. Andiamone. Allora, bene, quindi volevamo dire l'ultima notizia che mi capitava sotto mano era anche che si era rinvenuto alla ribalta le famose falle di vulnerabilità di Android. Tra l'altro il numero di attivazioni di Android rispetto a 6 mesi fa è salito di addirittura 200.000 unità. Sì, c'è stato questo boom delle attivazioni di Android. Nonostante tutte le catene di negozi, almeno qui in Italia, stiano promuovendo Windows Phone schifezza 8, 7, quanto sono. Ebbene, dovete sapere che i vostri fantastici Android, praticamente su tutte le versioni, permettono ad un'applicazione senza nessun permesso e senza nessuna autorizzazione di installarsi, mettersi al boot, registrare ogni key press down, cioè praticamente possono loggare tutti i tasti che cliccate, messaggi, possono anche io ho il touch, come fa a loggare? No vabbè, anche col touch. Aprire una shell in remoto, che significa che qualcuno a distanza può prendere possesso di... tipo l'esorcista del vostro device, con una bella possessione di file. E tutto questo si sa da mesi, se non anni, e Google ancora non fa nulla per risolvere questo problema. Forse lo fanno apposta, diciamo, per lasciare proprio queste porte aperte a chi sa come entrare. Sì, diciamo che ad ogni modo il problema dei Trojan, che non è una parolaccia come abbiamo appena saputo, è dei rootkit sui device, sugli Android device, sugli smartphone, è un problema comunque abbastanza grave, come abbiamo visto con il caso IQ Carrier, di cui abbiamo parlato solo poche settimane fa. Perché a differenza, cioè più di un computer, su un device abbiamo informazioni ancora più personali. Diciamo che lo usiamo più di un computer, però ha una sicurezza n volte inferiore a quella di un qualsiasi sistema operativo attuale. N è uguale, eh? E soprattutto, essendo uno smartphone comunque dotato di GPS, questo qua rende lo smartphone radiotrasmittente è la microspia perfetta, per ogni... può diventare un microfono ambientale, può dire a chiunque dove siete, può scattare anche foto senza che voi lo sappiate. Sarà forse per questo che non sono intervenuti i cari amici di Google? E adesso pausa musicale. Volevamo farvi sentire un pezzo di Screaming Jay Hawkins, che forse fu il primo a portare sul palco scene macabre come testi teschi e cose. Nato nel 29, diciamo un antenato dello zio Osbourne di oggi. E di Marilyn Manson, magari. Solo che lui mangiava passerotti probabilmente e non pipistrelli. E quello era Marilyn Manson. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Truck endorsed by a clown. Canyonero. No! Canyonero. Hey, hey! Das Verkehrsministerium hat den Canyonero für Fernstraßen- und Stadtverkehr als zu unsicher eingestuft. Canyonero. I nazisti dell'Illinois. Sulle note di Canyonero. Ritorniamo qua in trasmissione. Presto avremo un contatto telefonico. La canzone di prima era I Put a Spell on You. Che non avevamo detto il titolo. E chi stiamo aspettando? Come abbiamo detto, dovrebbe arrivare Natale a brevissimo. Quindi secondo voi chi stiamo aspettando? Gesù? Anche, perché alla fine tutto sommato, insomma, tra poco ci siamo quasi al compleanno. È il compleanno di Gesù. Comunque, bellissima versione crucca nazi di Camionero. Camionero, Canyonero. Oh, tu che ti sprezzi i crucchi dopo che oggi ti sei ascoltato metal, anzi non metal, techno tedesco della crucca. Peggiore specie. Quella là era la canzone di Natale dei Mozilla Bros e che non temete, vi faremo ascoltare a fine puntata. Siete ancora in tempo a cambiare. E adesso forse abbiamo in linea, sì, è proprio lui, incredibile, in anteprima alla vigilia del Natale, Natale! Andiamo lì! Pronto? Natale, ci senti? No, non vi sento! Natale, ci senti? Io ti sento. Okay. Grandissimo, sei in linea! Grande! Buonasera, è con ciao noi il nostro Mozilla Bros numero 1, Natale! No, il numero 1 è Matteo. Matteo è il numero 0, mi meraviglio di te. Sai bene che noi informatici contiamo a partire dallo 0. Ti stai rincoglionendo a Milano, zio. Tu e le tue nuove dita. Ma noi non è che Natale ci ha chiamato così per caso. Infatti, io vi devo dare il resoconto della scena nerd Meneghini a cui ho partecipato. Praticamente è un ritrovo a Milano dove si riuniscono tutti i nerd della Lombardia, quelli di passaggio Lombardia a Natale. c'è un sacco di giochi, fra cui quelli di Linux Kit, pazzi psicopatici, programmatori Python, gente brutta, insomma. C'eri tu? E c'ero io. Cioè, erano programmatori Perl. No, forse perché stanno estinguendo, forse perché solo tu. E poi c'erano tipo Vecna, mi pare che si chiama. Poi c'era parecchi, sì, abbiamo parlato con lui, tra l'altro un esperto di liquori amari. Diciamo, tu ci fai il resoconto del lato non informatico, sì, della. Allora, guarda, per quanto riguarda il lato informatico, siamo stati. C'è stato un nerd veneziano che ci ha parlato delle falle del sistema del quando riguarda le biglietterie, gli ATM a Venezia. Forse quindi stai parlando di Epto. Sì, bravo, lui. Allora, ci ha parlato 2 ore di questo problema di privacy, di praticamente a Venezia l'azienda del trasporto pubblico ti traccia e tiene i tuoi dati per 96 ore solo perché il garante gli ha detto che le deve tenere massimo per 96 ore e il trattamento lo fa dopo 96 ore. Allora, al che il prode, come si chiama? Epto ha sollevato l'eccezione che era ridicola questa cosa, ha mandato avanti le cose, è andata dal garante, al comune, ha fatto burdello, gli hanno dato ragione, quindi la sua battaglia sta andando avanti. Quindi grande Epto comunque. Sì, ha fatto vedere che il sistema da 12 milioni di euro che usa il comune di Venezia e la provincia, in realtà può essere simulato con un telefono Android da 99 euro. Poi ha parlato di tutte le imbroglie degli assessori eccetera eccetera, quindi è stato sicuramente illuminante, un po' pesante, 2 ore la stessa cosa. Infatti notavo un po' il tuo tono di voce, diciamo, sull'andante. Sì, c'è stato comunque, allora, vabbè, ma zio, ma tu sei troppo uno spirito libero, che ci vuoi fare? No, ma vabbè, comunque un sacco di nerd, certi strani, tipo Avogal, proprio certi strani. Vabbè, c'era Matteo vicino a te, quindi gli strani. Guarda, e poi tra l'altro cercava Vecna, cercava un sistemista. Io gli ho parlato di Ono Sendai, però io poi non riesco ad accendere le macchine. Ma anche no. Passo, guarda, che per il loro progetto finanziato da non so chi. Ma quale? Quello di Global Leaks? Sì, Global Leaks, bravo. Cercano collaboratori per Global Leaks. E magari poi ne parleremo prima o poi. Sì, chiunque sia interessato può anche cercare maggiori informazioni su GlobalX perché cercano collaboratori. Mentre stai parlando è arrivato l'altro ospite della trasmissione, incredibile, okay. Solo per te è il cantante. Il cantante, voglio, è storia. Comunque mi ha provato a chiamare oggi. Non so comunque, se lo sai, ma la puntata è dedicata al fatto che domani viene il Natale. Infatti adesso ti facciamo salutare pure. Bro, buonasera. Buonasera, no, canta, quando viene? Quando ritorni? Sono in viaggio. Ma fa freddo là? Ma abbastanza. Al caso parecchio. Alla sera ha fatto la neve pure. Dove? Alla sera. Alla sigla, senza no, ancora niente. E infatti, pecoriello domani scappa. Anzi, oggi scappa. Niente, pecoriello. comunque, io, super nerd. C'era una che si chiamava Virgio. Una? Che si è ingazzata in uno. Poi c'era una che ha l'export all'artist con uno Sendai. Diciamo, è la uno Sendai. Sì, è la uno Sendai, poi erano tutti strani, insomma erano tutti nerd. Insomma, un bel ambientino. È proprio un bel ambientino, sì, sì. Queste gene nerd che raggruppano tutti i nerd in giro per il mondo andrebbero fatte anche a Cosenza, però non solo la club, secondo me allargare anche tipo ad alieni, perché c'era gente strana, qualcuno con metamorfosi in atto, c'era. Metamorfosi. Tipo Ceto Flow, insomma. Sì, succioti, diciamo, più strani ancora, meno soviet. Mi sembra, loro sono meno soviet, secondo me. Comunque sono sempre nerd, quindi è stato sicuramente piacevole. Bene, bene, ci fa piacere. Natale, ti vediamo un po' scarico, ma suppongo. No, perché non è che posso parlare, sono nel pullman, come sai, posso importunare il prossimo. C'è il rumore fra i nodi. Se no, tra poco dormono. e quindi ho il tono di voce un po' basso, ma altrimenti sarei... Sei proprio un gentleman del nord. Sono un gentleman. Cazzo figa, ormai oppure griderei Pirillo Pecorillo. Oh, ma non so se avete notato, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che si è aggiornato il sito di Mozilla Bros e c'è la foto di Cicillo. Infatti lo potete vedere nella pagina Bros con un'ampia descrizione di quello che fa Cicillo. La versione non censurata è quella. La versione non censurata è scritta da me in cooperazione con Zen, che vi saluta tutti, penso, che è nato a Milano, e quindi voglio che... Bene, allora ci confermi che domani viene il Natale, anche a Cosenza? Domani viene il Natale. Bene, bene. Persona. Alle 9 all'autostazione. Bene, quindi chiunque voglia vedere il Natale domani alle 9 all'autostazione. 9 a.m. sì, sì. Il pullman si comporterà con best effort, quindi non ci sono i quality of the service. Dipenderà dalla neve. Sì, sul pollino trovi proprio, non ti dico cosa. E poi pensa che ci prenderemo a Parma. Quindi sai quanti disegni sorgono, quanta base sale a Parma? qualcuno forse sale. Secondo me sì, sale tutta la base. Io tanto incontro sempre gente di disegni nei miei viaggi e quindi parlerò di Garu. È destino. Bene, grazie tante della telefonata. Scusate, io ho fatto anche una richiesta musicale. È già passata con tanto di dedica al Natale. E soprattutto grazie. Ti dedichiamo un grandissimo pezzo techno sul Natale a fine puntata. Ok. Non ti vedo molto convinto di quest'ultima cosa, penso. Non vedo l'ora di ascoltarlo. Vabbè. Voglio, vi saluto. Ricogliati presto. Buon viaggio. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. E dopo questa breve pausa telefonica di Natale passiamo con l'altro prossimo pezzaccio che ci manda il nostro Garulf, che forse è proprio quello di Natale techno. No, quello è alla fine. Ancora no, però un sorriso sulle labbra di Garulf mi ispira. No, non l'ho neanche scelto io questo pezzo. Ah, forse... You come back home tonight. Oh city, you come back home tonight. You know I'm gonna treat you right. You don't love me. Why didn't you let me know? Oh Lord, why didn't you let me know? Maybe somebody ain't let you go. I call her, and I call her on the phone. I call her, and I call her on the phone. Some man, and he told me she wasn't at home. I got it, and I roll up to the door. Got in my car and I roll up to the door. She told me I can't use you anymore. Said it, you treat me the way you do. Oh, said it, how come you treat me the way you do? I love you, I don't love no one but you. I cry, you know, I cry all night long. I cry, you know, I cry all night long. And baby, you know you're doing me wrong. I tell me what you want your man to do. whole city. What you want your man to do? I love you. I don't love no one but you. Just one more chain. Oh Lord, will you give me just one more chain? I'll prove it. Oh Lord, I'm still a man. Sin, will you come back home tonight? You know I'm gonna treat you right. Informatica e telecomunicazioni, un codec è un programma o un dispositivo che si occupa di codificare e o decodificare digitalmente un segnale analogico, tipicamente audio. E questo era il nostro base 9000, che ci stava spiegando cos'è un codec, che si occupa di qualcosa. Si occupa, si occupa qualcosa. Noi siamo sempre i Mozilla Bros. Non ti senti, cara? I Mozilla Bros, Radio di Roma 105.7. Replica su Radio Transizione di Fase il lunedì alle 20 e su Fuori Onda Radio il venerdì alle 16. Abbiamo come sfondo un banjo impazzito. Un banjo che è un bellissimo strumento a corda, tipo una chitarra. Allora, io dovrei fare dei ringraziamenti al nostro cavaliere Obi-Wan, perché la scaletta è, diciamo, quasi del tutto anche opera sua. Mi piace. Clicco lo spunto. Sì, è perfetto. E niente, dobbiamo dire che comunque noi faremo di tutto per essere il 28 dicembre in trasmissione, per non lasciarvi a digiuno di Mozilla Bros neanche durante le vacanze di Natale. No, ovviamente non è vero, però noi ve lo diciamo. Vabbè, faremo di tutto, poi anche se non faremo di tutto, noi ci proviamo, poi quello che succede. Poi sicuramente, o quasi sicuramente, ritorneremo l'anno prossimo, ma non il 21 dicembre 2012, perché il 21 dicembre 2012 finisce il mondo. Anche su questo io non do garanzie per quanto mi riguarda. Invece non si sa se ci sarò l'anno prossimo. Proprio tu fuori onda hai detto sì. Ah, il problema è che dopo Capodanno, quindi potrebbe... Appunto. Comunque il 4 gennaio faremo di nuovo di tutto per essere di nuovo in radio. E ovviamente non ci saremo. Bene, adesso è arrivato il momento più atteso da tutti i radioascoltatori interplanetari, vale a dire è arrivato il momento del cantante. Che ci canterà una nuova canzone. Che ci canterà adesso una nuova canzone. Cantante, cosa ci canti adesso? Americane, a me c'è il mondo. Con questo sottofondo da Irlanda. Buonasera. Buonasera. Vi canto questa canzone. Per Natale. È una bella canzone, non lo so se la cantate a marzo. Ah. A me c'è... Moment I'd love to stay away. Magic moment, I deliver daily. Magic moment, I deliver daily. Magic moment, I deliver daily. Buonasera, un saluto a tutti. Ci vediamo il 2012. Speriamo che sarà un bel 2012, pieno di stelle. Grande cantante. E questo è il saluto della nostra stella cantante, che ricordiamo uscirà entro il 2015. Entro il 2015, se ci saremo, con questo nuovo speciale di Natale. Natale, ma fa freddo a Milano. Questa musica che fa venire voglia di bere fino a morire, probabilmente. Sì, ha proprio il sapore di pub inglese. Ma no, ha il sapore di odio verso l'Inghilterra. Vogliamo l'indipendenza della Calabria, diciamolo. Diciamolo, Calabria caput mundi. Vogliamo l'indipendenza noi della Calabria dall'Inghilterra, no? Infatti speriamo che questo prossimo terremoto ci stacchi dalla bella Basilicata e finalmente diventiamo un'isola anche noi. Ok. Così finiamo proprio con le pacche. Niente, qua siamo sempre in Mozilla Bros. Stiamo per chiudere la trasmissione con questo rullo di tamburi. Volevo sinceramente leggere la descrizione di Ciccillo, perché è molto bella, sul sito aggiunta dei Mozilla Bros, sul nostro che comunque siamo. Dovete visitare quantomeno per vedere la foto, per anche, inquadrare il soggetto. Esatto, anche perché comunque siamo comunque in streaming lì e potete trovare i nostri podcast. Comunque sulla pagina Bros, con una S non con due S, c'è la simpatica descrizione di ciascuno di noi, fatta da Natale e da questa fatta anche da Zen. Ciccillo è un nerd atipico, organizza i suoi neuroni come una rete mesh ed è impegnato in progetti nerd, equo, evo, soviet, ma distinti, solidali. Arriva prepotentemente nella formazione con la sua verve nerd e il suo appeal partenopeo, e si piazza in regia per contrastare sapientemente l'alone metal di Garulf. È un maniaco del caffè, ma non lo beve, tratta, flescia, mangia router casalinghi per i suoi piani cioto nerd solidali. Allora, io innanzitutto ringrazio Natale e Zen per la descrizione che ho letto, o meglio, ho ascoltato per la prima volta anch'io in questo momento. Però vorrei solo fare una piccola precisazione. Non sarò certo io a contrastare Garulf nei suoi piani metal. Cioè, raga, forse voi non vi rendete conto di cosa avete fatto a lasciarci qua. Noi stiamo stando calmi appunto per non dare l'occhio. Dico che penso che una goccia che sta per far traboccare il vaso è stata la mia richiesta del pomeriggio. Sì, ma noi entriamo prepotentemente. Diciamo, tu hai tentato di introdurre una pericolosa backdoor all'interno della regia, te lo dico. Speriamo che questa venuta del Natale di domani si frapporrà tra voi e le vostre intenzioni metal psicopatiche. Vabbè, sicuramente Natale riporterà sul blues più spinto la regia e la musica di questa trasmissione. Però sappiamo tutti che il Natale arriva, ma poi se ne va. Comunque, visto che è periodo di Natale e noi facciamo anche un po' di pubblicità, volevamo dare il consiglio per gli acquisti, perché abbiamo valutato un sacco di possibili regali che potreste fare. E alla fine, dopo una lunga discussione, abbiamo eletto il regalo più bello che uno potrebbe ricevere. La colla? Garulf, diccelo tu. La Crocifix? No, quello è il nostro sponsor che avverrà a breve. Per chi non lo sapesse, Crucifix è una nuova potentissima colla. Non vi svegliamo molto, ma vi lasciamo immaginare chi può essere l'uomo copertina, promoter del Crucifix. Crucifix, uno stacca manco Gesù Cristo. Tra i vostri regali preferiti sicuramente avrete le bambole di Ticone. Esattamente, vi consigliamo di cercare sul vostro internet preferito bambole di silicone. Non è baby mia, nemmeno sbrodolina, è una cosa molto più reale di questo. È molto più costosa. Vabbè, il costo diciamo che possiamo costa? Anche Quanto costa? Costa dai 6.000 ai 7.000 euro a seconda degli optional che volete montare su questo bellissimo accessorio. E dico che montare forse è il termine più adatto in questo caso. Diciamo che con lo stesso prezzo si va in qualche paese dell'est del mondo e si compra. Però una bambola persona di silicone è per sempre. C'è un po' di romanticheria, siamo pure a Natale, spiritualismo, co? Beh, bene, quindi siamo in chiusura. C'è il cantante che vuole fare un'altra vi voglio, vorrei salutare Fabio. È un'amica mia che mi sono dimenticato l'altra volta. Samantha si chiama. C'è un bel nome, ma. Come si chiama? Come si chiama? Samantha. Ah, Samantha. Ciao, Samantha. Ma aspetta, c'è un bel nome, ma. Ma ci lascia in sospeso così. Ci lascia in sospeso il ma. Comunque, ciao Samantha. Ciao. Non dormiremo per tutto il 2011. C'ha un bel nome, ma non è una bambola di silicone. Sì, ormai sappiamo cosa regalare a Marco, diciamo, per Natale. Quale Marco? Eh? Quale Marco? Ho detto Marco, poi scegliete voi. Potremmo aprire anche un sondaggio su Facebook. Dato che abitano. Quale Facebook? Dato che abitano insieme, quindi potrebbe. Diciamo che regala la casa. Sì. Mia, che schifo. Bene, noi salutiamo tutti. Ci rivediamo forse settimana prossima, forse l'anno prossimo, forse prestissimo. E vi lasciamo col nostro pezzaccio natalizio, che è in puro spirito natalizio. Consigliamo di far ascoltare a tutti. Check it out now. The funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. Ovviamente non è questo, stiamo semplicemente cercando all'interno. Però disco. Potremmo dire una piccola cosa. Lo sapete che il pover'uomo che ha fatto questa canzone non ha guadagnato nulla, perché ha usato il campionamento di quattro altre canzoni e l'industria discografica l'ha obbligato a pagarli. Questa era tipo una good news una alla good report. Good news, diciamo. Alla report, al contrario. Questa canzone è stata ascoltata oggi da Marco per più o meno 2-3 ore di seguito, quindi possiamo anche capire il suo stato mentale. Ha fatto una faccia quando hai messo questa canzone, gli si sono illuminati gli occhi come se fosse oggi Natale, mentre oggi è la vigilia di Natale. Ma questa canzone, diciamo che la mettiamo in nome del pluralismo del trota. Bene, dai ragazzi, non so se riusciremo mai a trovarla questa canzone. Un saluto a tutti dai Mozilla Bros, buone feste, buon Natale, anzi buon arrivo di Natale e buon Natale. Mozilla Bros, siamo in missione per conto di Dio. Ed ecco la canzone del Natale. Ciao. Aruku, alla prossima. Aruku. Heute der Nordpol und morgen die Welt. Greifen nach!